Pensavo fosse qualcosa di tra virgolette più leggero, dai. E niente, vabbè, per adesso personalmente mi va bene così. Lui. L'ultimo esame che avevo dato mi avevano chiesto roba di telefonia, roba di internet, roba di computer, ti chiedono. Ho capito. A una certa età mettersi a studiare è tosta, eh. Io non vado impiegata a Beni, dimmi. Aspetta che faccio una chiamata a Marco. Marco, sei ancora? Guarda che ti ho mandato un vocale. Sì, letto. Sì, anch'io sono curioso da quel punto di vista. È di una semplicità, guarda, quella cosa. Estrema. E ti mando anche un particolare. Ti ricordi che si era parlato di un famoso filo sottilissimo avvolto su un tubicino di cartone? Purtroppo ne ho avuto la prova. Ecco perché i prezzi sono così contenuti. Segue foto. Ho capito. Bau, micio. Ne abbiamo una ambulanza. Miau. Pura capedrente. Sì, adesso aspetta che seleziono Telegram. Ancora non è arrivato nulla, dai. Sarà in viaggio. Dovete fare partecipe pure a me su queste cose, gatta. Non mi fate mai partecipe. Marco sta facendo un lavoro investigativo su certe antenne, dai. Quelle devi conoscere, la propagazione, lunghezza d'onda, velocità dei cavi. Natalì. Allora, io adesso ti faccio vedere com'è fatta la bobina della Venom, che non è praticamente tra le due staffe, in quel tubicino che sta tra le due staffe, in quel tubo di metallo, e alla base, proprio dove c'è il piede, dove c'è quell'altra campana di plastica nera ABS che sia, no? Ecco, e ti faccio vedere la differenza tra la bobina della mia Energy e la bobina della Venom. Le differenze sono vergognose. Ecco perché costa così poco la Venom. Allego foto. Ehi, cappa, me lo posso immaginare. Dipende dalla costruzione. Lì deve stare la bobina, Pezzo di cartone invece. Adesso sto cercando la foto della bobina mia a vista, no? Che è quella che è nel tubicino di plastica. Praticamente sembra l'anima di un tubicino in cartone, l'anima di un rocchetto di nastro isolante con a volte un filo che in effetti è sottilissimo. E dicono che tiene 1000 watt, quel filo lì, e poi ti svegli tutto sudato. Ma non è che ci sarà un toroide lì dentro, no? Non è che ci saranno. Non è che ci sarà un toroide lì dentro, e sarà avvolto in quel toroide. No, è proprio il supporto di o cartone o quel materiale refrattario, quello color marroncino, no? C'è un filettino avvolto e poi è coperto da del presumo autorestringente rosso. E quella è la bobina della Venom, quella bobina è. Ma carità! Ma se metti 1000 watt poi può esplodere, Nicoletto. No, ma infatti questa leggenda di 1000 watt, lì ne puoi mettere 100 in AM effettivi, 150, 300 SSB, ma non mi fiderei nemmeno. Comunque, oh, l'hanno sempre usata, gli inglesi hanno sempre usato quelle antenne lì, Silver Road, queste della Sigma Telecom, Eurocom, come si chiama, vabbè, quella Sigma Eurocom, quella inglese, le hanno sempre usate, quindi funziona e funziona, non la puoi caricare in watt, però, Cristo Santo. Ma manco 100, perché scaldami, dove passa energia, scalda, non c'è nulla da fare. Sì, sì, è vero, scalda. Adesso ti mando la mia bobina, anche a Gianni, la bobina della mia vista da altre angolazioni. C'è una leggera differenza in dimensioni, della sezione del rame pure. Ma soprattutto della sezione del rame, Marco. Guardati la bobina della mia, che già non è un granché, sembra una bobina di macchina veicolare, però c'è una differenza già nel conduttore, vista le varie angolazioni. Gianni è scioccato, Gianni è sicuramente scioccato, Gianni. Gli sono mancate le parole. Cazzo, è più grossa quella della PLC 800. Però vedi, questa bobina è data dalla Midland per 450 watt. Nemmeno 500, mi pare di ricordare, ma dal manuale 400 o 450. Fai che siano 450. 150 continui, si può stare, no? Ma dire, averne un'antenna con un filo sottilissimo che pari un rocchetto di filo per cucire, e dire che tiene 1000 watt, boh, immaginati quanto scalda quella cosa lì. Quando passa la radiofrequenza, lì, scalda, hai capito cos'è il discorso? Sì, sì, qui non si capisce se è cortocircuitata a massa o no. Cioè io vedo questo rocchetto, c'è questo coso di pseudocartone, o potrebbe essere anche materiale refrattario, no, che resiste al calore. Si vede questo filettino avvolto, questo termo restringente, o addirittura magari pure nastro isolante rosso, cosa ne gioco? Se vai a vedere, si fissa in quell'occhiello, c'è una specie di boccoletta lì, si fissa quell'occhiello che va allo stilo vero e proprio dell'antenna, sotto quella campana di plastica. Ehi, già lo so. Che la fare dove c'è attaccata la situazione, nella tua, si vede bene, no? Già che hanno fatto quella saldatura in mezzo, che non mi piace nulla. Nella mia però, allora l'alimentazione dal centro del PL è alimentata al centro, perché? Perché dalla saldatura centrale verso su, quella è la bobina per adattare elettricamente l'antenna ai 5 ottavi, no, la bobina dell'antenna. Invece dalla saldatura in giù verso la massa, quella è la bobina di cortocircuito. Infatti, la saldatura non è che mi piaccia tanto, come l'hanno fatta, quella e mezzo, mi intendo. Però già lo so che quella in basso è per cortocircuitare, quella in alto è per adattare l'impedenza. Gianni, forse Gianni è impegnato anche per questioni familiari, oppure come ho visto quel rocchetto di cosa è svenuto. Ehi, eccomi. Sì, non è abbastanza, come si dice, la cosa è proprio trulla lì, là. Proprio stracubarato, come si dice. L'altro è un po' più seria la questione, dai. Aspetta che sto vedendo la foto. GPE 5 ottavi, GPS mezz'onda, però non si comprende quanto sono lunghi i radiali della GPE. Tu sai qualcosa? Sì, la GPE è identica alla mia. Dire Sirio GPE o Midland Energy, New Energy, uguale, allora sono 1,30 m, voce tutto misurati, è 1,30 m. Cazzo, qua se mette un'antenna del genere, qua si posano gabbiani, corvi, cornacchie, cioè piccioni, vedi tutto. me ne buttano i radiali. No, a me non è mai successo. Non sono tanto lunghi. Poi sono in alluminio, non sono pieno, non sono in Ma lì qua c'è, come ti ho detto, molto traffico di volatili, anche di grosse dimensioni. Hai preso il fucile a pompa, lo carichi a pallini, ogni tanto fai qualche tiro così per allenarti. Cioè, non credo che ci siano uccelli di grandi dimensioni lì in zona, con tutti quei negracci che ci sono in zona. Qualche giorno se lo fanno a Cosomi, a Gianni. Comunque, vabbè, adesso a parte scherzi, cioè, però già, se ricordati, c'è la Sirio GPS mezz'onda, come c'è la Energy mezz'onda, non ha radiali, è uguale, stessa bobina, però non ha radiali, ecco. Sì, perché un 1,30 sono un po' impegnativi, però già, io ce l'ho da 8 anni, pigioni, ne ho visti di tutti i tipi, poggiati sopra, però per fortuna non è mai successo niente, i radiali sono perfettamente integri, e sono forati e non sono pieni, è alluminio forato, quindi sono abbastanza teneri. Ho capito Marco, ma... Boh, non lo so, qua le frequentazioni sono diverse, e ti posso dire che qua il cielo è non solo è molto frequentato, quindi tra piccioni, corvi, cornacchie, gabbiani, ci manca Dumbo e siamo a posto. Ah, chi tu non bisogna buono a fatto un tirarsi con i bodigavi, il gruppo zio mi dico, ogni tanto lo riempi di pallini, boom, ecco di un tiro. Comunque già, adesso capisci perché dicevo, cioè per pagare 45 euro la Venom mezz'onda e pagarne 55 la Sirio mezz'onda, io già guardando la bobina direi Sirio mezz'onda vita. Quello che non mi piace dalla Sirio, alias Energy, è che c'ha le vitine per bloccare gli stili. C'è delle vitine che prima o poi col vento inizieranno a fare gioco, magari a spezzarsi. E sai cos'ha la Venom di bello? Che la puoi installare, te la tieni chiusa, telescopica, no? Apri lo stilo, stringi le fascette, montata l'antenna, montata almeno l'antenna, poi fissi quelle U-bolt, come si chiamano, quelle cose a staffe a U e montata l'antenna. Anche per installazioni provvisorie, test da fare, no? Terrazzi secondari, già ci siamo capiti. Eia, beh sì, in effetti certo che c'è una bella differenza. Vabbè, i soliti pipponi, cazzo, se, cioè, nel senso, voglio dire, ma come te lo posso dire? Alla fin fine, voglio dire, cosa, per quello che l'utilizzo non ne faccio io, queste differenze, cazzo, differenze che probabilmente sono assolutamente impercettibili, quella tra una Sirio GPS e una Sirio GPS. Boh, vabbè. Io parlo anche di aspettative e di pretese, per cui non sono tantissime. Sì, io. Va bene, come materiale credo che siamo lì, e vedendo il peso, 2,5 kg, diciamo che l'alluminio della Sirio, adesso vedremo cosa arriverà, l'alluminio della Sirio aveva una bella finitura carina, anticorrosione, mentre quello della Venom proprio mi sembra... ferraccio cromato, no, alluminio è sempre, però c'è quell'alluminio troppo lucido, boh, non lo so, proprio tipo Mario Francese. La poi non c'ha le fascette come la Ringo, no? Giusto? Sì, sì, allora io le fascette nella Ringo le ho criticate, però... Sai cos'è? Uno quando fa un'installazione temporanea, sai, fa quel giorno o due di prove, mette solo le fascette ma non impermeabilizza. Però quando gli fai l'installazione definitiva, allora le fascette devono scomparire sotto il vulcanizzante. Guarda, se lasci solo un millimetro scoperto, come è successo a me, è entrata l'acqua da lì e non ti dico cosa ci ho trovato. Ci ho trovato ruggine, questa specie di mucillagine tipica dell'alluminio. È presente le caffettiere, se ti dimentichi di lavare il fondo della caffettiera, la lasci chiusa, si forma quella mucillagine dall'alluminio. Ecco, ci ho trovato quindi ruggine, mucillagine di alluminio, e poi l'alluminio era tutto nero, nero dall'ossido, cioè è stata solo un anno quella Ringo della Lemma. E poi si è staccato proprio lo stilo dall'elettrico, cioè resistenza meccanica proprio zero. E d'altronde la Ringo costava 39 euro, la Fusaro, la Ringo della Lemma, non mi ricordo il modello, c'ha una sigla AT e non mi ricordo cosa. Però era peggio della Venom come regista. Invece la Venom c'ha quella bellissima staffa, hai visto? Praticamente tutta l'antenna intrappolata è quella staffa, non a meno che non ti si spezzi una parte dello stilo, la staffa va benissimo come progettata. Daniele me l'ha prestata, l'ho tenuta un paio di settimane, ma ne l'ha giubugata subito. Natalino ne sa qualcosa della mucillagine che l'ha trovata nel PL dell'antenna che ha smontato? Guarda, io avevo una BA27L in campagna, che è simile, se non uguale, alla Energy. In quella addirittura la salsedine mi ha ossidato la presa femmina dove si attacca il PL e me ne farà drugare in terra. Oia! Oi oi oi oi! Boh, alla fine... Boh, queste cose mi lasciano ancora più interdetto. Se comprare l'antenna con la bobina di cartone o prendere qualcosa tipo assiglio, dai. Fidati la Energy, solo vulcanizzala bene, ma bene però, perché se no ti fa lo scherzo che ha fatto a me di entrare l'acqua. È solo quello che devi fare. La devi piazzare bene. Anche Marco Scorpion ce l'aveva, gli ha fatto lo stesso discorso che ha fatto a me. È entrata l'acqua e ce l'ha dovuta buttare. Vediamo, dai. Questa foto non ha fatto altro che riaccendere i vari dubbi che avevo già prima. Boh, non lo so, allora vediamo, dai, uno non lascia. O il zuppo o il pan bagnato, dai. Ma a te per fare di ex ti serve l'antenna Gianni? Devo fare un upgrade, no? Da un quarto d'onda voglio mettere una 5 ottavi. Se non riesco a mettere una 5 ottavi una mezz'onda, ma insomma, per avere un minimo di miglioramento, dai. Quanto è alto il palo dell'antenna che hai tu? Quello che ho messo è 4 metri. A voglia. Allora, io ti faccio un dipolo per le bande di su, te lo taro proprio per l'immi, e ti fai a beffa, altro che 5 ottavi. No, vabbè, Natale, io rimango nella banda CB, per il momento non sono attrezzato per fare altre cose. Oh, per il 555 ti faccio un dipolo per quella banda lì, per andare in banda laterale nella 27 stesso. Ti faccio un dipolo per lì, dedicato per lì come ce l'avevo io in campagna. Fa una cosa, una velva era il suo dipolo. Ma messo in orizzontale o in verticale? A V in verticale. Lo mettiamo nel palo della boomerang. E quando vuoi andare su, usi il dipolo per fare di ex e poi mi diverue. Via lui abbaiando, Marco, ci sei ancora? praticamente spesa zero, solo i soldi del cavo. Ehi, Anatoli, ho capito. Che non voglio mettere troppa roba sopra, niente. Meglio, no, come si dice, non svegliare il cane che dorme, poi cominciare, magari, sai, ciu ciu ciu ciu ciu ciu, poi, e niente, questo è quanto. Ma non si vede nulla. Oh, io, beh, io mi sa che per il momento vi lascio, non so se manca ancora l'ascolto, niente, dai, Natali. Ci aggiorniamo più tardi, vado a prepararmi qualcosa, dai. Ci si aggiorna dopo, ok? Ok, dai. Ci sentiamo dopo, avanti Marco. Ritratto, quindi? Quindi non si è fidato. Gianni, io gli volevo fare un dipolo per la 555. Non ne ha voluto lui, dedicato per quello. Ne avevo uno io, lo usavo solo per fare di ex. Una belva era quel dipolo, a V invertita. Sotto l'antenna lo piazzava, come ho fatto io. Cazzo, una belva era. Di Polo, una volta che lui si prenderà, se prenderà la Venom, cioè quando ci avrà 5 ottavi o mezz'onda, non avrà bisogno del Di Polo per la tripla 5, lavora in verticale anche lì. Ma V invertita, gliela volevo mettere sotto la cosa, così non spendeva soldi dell'antenna. Però per la 27 rimarrebbe sempre con un quarto d'onda, che non è male, mi. Se qualche watt in più non è niente a male il quarto d'onda, però c'è di meglio. Sì, vabbè, ma così poteva usare il quarto d'onda per qua e il dipolo per là. Che ne so, anche, vabbè, tu sei più per i dipoli, hai notato? No, io, vabbè, la voglio, come dico io, omnidirezionale, di alluminio possibilmente. Ma Gianni c'è ancora o ha chiuso? No, ha chiuso. E magari è andato a mangiare, noi mangiamo più tardi perché abbiamo fatto colazione molto tardi. Vabbè. Comunque, questa storia del rocchetto, cioè del filo sottile su questo cosiddetto tubicino di cartone, io l'avevo letto su un forum di questo che l'aveva aperta l'antenna e aveva visto questo schifo di bobina. Però anche Gianni era titubante, dice, mi sa di fiago di paura, cioè, invece avendolo visto da vivo, da un sito inglese, c'era anche la spiegazione, perché lì praticamente gli tolgono quella, gli mettono il vero toroide con gli avvolgimenti e le varie, e la trasformano in un'antenna HF, capito? La Venom, quell'antenna lì, la trasformano in un'antenna HF, proprio però togliendo quella bobina e mettendo, costruendo il toroide, costruendo proprio toroide con la bobina. Vabbè, già hai capito, il balun. Infatti, me l'avevo già studiata io. L'avevi già studiata? Allora dimmi la differenza tra un balun e un unun. Balun, balance, un balance. L'unun sarebbe un balance. Cioè, spiegami la differenza, non ci compreso. Uno è bilanciato e l'altro è sbilanciato. No, ma in fin dei conti, quando è che in uno stilo devi mettere uno e quando devi mettere l'altro? Quali condizioni? Io quei balun lì li mettevo nei dipoli, ma serve a simmetrizzare l'antenna, capito l'hai? L'ho fatto io nella multibanda, l'avevo fatto. E c'ha l'alimentazione in terra praticamente alla fine della scaletta e io gli avevo messo il balun lì. Sì, poi vabbè, poi mi guarderò. Una volta c'avevo un manuale dell'antenna fenomenale che non era mio però, mi era stato prestato, ma era fenomenale. Però giustamente il CB che ce l'aveva l'ha rivoluto indietro. invece c'ho quello radiotecnica per radioamatori, edizione vecchia, magari non ci sono le ultimissime cose, novità, ma credo di non averlo, beh, poi non era roba mia, quella è roba che mi hanno lasciato altri CB, che non di qua e non di Sassari. Ma tu vuoi avere le antenne? Ma su internet ci sono tutte le spiegazioni. Vuoi sapere come si costruisce un dipolo, vuoi sapere come si costruisce un balum? Ci sono tutte le spiegazioni lì, se ti vuoi fare una cultura sulle antenne. Sì, alla fine sì, mentre una volta eri costretto a avere libri, quando non c'era internet, dovevi avere il libro sulle antenne, su tutte le basi. Adesso bene o male, anche sui forum ti spiegano un po' tutto, tanto sono tutti radioamatori che lo spiegano, Ari Fidenza, Roger K, anche roba in lingua inglese, capito? C'è un po' tutto, manuali, anche PDF da scaricare, c'è libri trasformati in PDF, no? Magari non pagando il copyright, chi lo sa. Io l'avevo fatto lì il sintetizzatore perché... Ma la mia andava a tutte le parti, la verità che avevo anche gli 80 metri. Sì, anche in ascolto influiva, cioè se l'antenna era non risonante, cioè approssimata, no, per tipo gli 80 metri, però con una misura approssimata riceveva ma con una certa attenuazione, però se la facevi con le misure giuste risonante, magari controllata al rosmetro, allora ci avevi il massimo della ricezione, vabbè, come è giusto che sia. Infatti, in 80 metri ha fatto la lista, li chiamava per nominativo, perché tutti volevano collegare la Sardegna, in 80 metri arrivavano una schioppettata, ti sto dicendo cazzo, che era una cosa da vedere, Marco, era una cosa da vedere, in 80 metri. Ah, quello ai tempi con l'aiuto di quel radioamatore, no? S. Ehi, se ti sto dicendo si faceva beffa, lui non c'aveva l'antenna e allora gliel'ho costruita io, dalla volta gliel'ho costruita non c'è più salito, però a lui gli mancavano gli 80 metri, io ce li avevo perché la mia era più lunga l'antenna, la mia era fatta con le misure sue proprio, ti sto dicendo arrivavano in 80 metri una schioppettata. Un po' rumorosetti gli 80 metri, poi però se hai l'antenna orizzontale, vabbè, lavori meglio, la verticale è troppo rumorosa, io parlo sempre di antenne veicolari, l'unica che ho potuto usare in macchina, se c'è quella orizzontale, vabbè, ti punti la zona, se hai meno QRM, eccetera, comunque sempre più rumorosetta è come banda, no? Ma io qua sento addirittura gli 80 metri meglio degli altri, capito? Quando si fanno la chiacchierata mi sentivo benissimo, adesso non posso ascoltare un cazzo, affanculo. Ieri notte addirittura la cosa mi è successo, non riuscivo a dormire e mi ho acceso la televisione, ma a minimo a 15 era la televisione, e guarda caso c'era la finestra appena aperta di cucina, beh alle 2 di notte mi hanno telefonato a spegnere questo cazzo di televisione, hai capito? In che posto sono capitato? Mi hanno rotto le balle. Stavo per andare in questura a denunciarla quella persona stamattina. E la possibilità perché mi stanno stalkizzando. Io cerco di rimanere calmo, ma guarda, i nervi te li fanno venire. Ma il delinquente? No, no, una signora che abita a fianco a me. Cazzo, una cosa incredibile. Non puoi salire la musica se no te ne quella del palazzo di fronte ne esce con i capelli dritti e ti fa lo scandalo. Non puoi fare un cazzo qua, nulla. E quando hanno visto la Game Master, cazzo, questo disturba di più. Mamma mia, io te l'ho detto, no, che ambientino c'è lì, proprio la crema delle, di Sassari, la crema guasta però. Sì, finta che non mi compare giù una MG. Sì, tutto quello che è passato per questa radio, cioè, proprio il coglione, qua ancora, è più, vabbè, signorile è una parola grossa, no? Il palazzo, la zona. Ma mai a questi livelli, sì, magari ti, qualcuno faceva telefonata, ti ricordi quella, quello scherzo lì, i potenziometri, che c'è un'aria capre. Sì, capre solo sono. Guarda, se non l'avessi passato io non ci avrei creduto. Sì, e comunque anche l'Opio Rum a suo tempo è stato tartassato bene, volantinaggio, coso, lettere anonime. Sì, poi col poveraccio si è impiccato, ma doveva essere un po' esauritello. Il colmo magari ha detto si impicca la tua antenna, come per dire mi sono impiccato per colpa di Opio Rum. Vabbè, comunque, anche lui ne ha dovuto passare, per dire, no? Di rotture di balle. Va bene, chi più chi meno, insomma, qualcuno gli ha tagliato cavi, rotto antenne, la razza è avvicinata, è successo a Luca del Monte, mi pare, cavi tagliati, pare che lì ho visto un po' la zona, Cristo Santo. Ti sto dicendo, a me mi hanno denunciato, mi hanno fatto venire la questura qua con le scorradio, me ne hanno fatto in tutti i colori, me ne hanno fatto, mi hanno spedito in ospedale perché io mi incazzavo quando succedevano queste cose, alla fine cazzo mi sono ammalato io, ma te li mangi. Lo so, però andata di più te la prendi anche troppo a cuore, sei troppo impulsivo, cioè proprio ti ci ammali per queste cose. Certo, io parlo bene perché quando non ho passato quello che hai passato tu, no. Bisognerebbe immedesimarsi un pochino, ecco. Mi torna il disturbo. Qua al massimo alle prime riunioni di condominio, pensa poi io ce l'ho dal 92 l'antenna, no? Questa loro l'hanno vista nel 2014, la nuova, perché c'era già un'antenna, anche se era col cavo tagliato. Al massimo qualcuno in assemblea di condominio ha fatto la battutina, io vado a mandare la TV, e l'altro anch'io, e io ho pensato, lei di lei Q2L. Che poi non era vero, era giusto per fare Ligia Bidoni, no? Sì, lo so. Per aprire la bocca e dare fiato, capito? Però a te t'hanno quella storia della portante col portatile, che è una cosa schifosa proprio. Aspetta un attimo, Marco, cosa lì senti questi rumori, Marco? No, che rumori? Premi il PTT. No, rumori che provengono dal canale, non rumori nostri, no. Ormai è finita. No, una felice, avevo lo squelce più alto del dovuto, non mi accorgevo di niente. Pronto a abbassare, ma non sento un granché, non sento... Oh, vediamo. No, io ero senza squelce, per quello lo sentivo a forte. Un rumore tipo trombetta. Ma lo stanno facendo per disturbare. Oh, sarà qualche apparecchietto elettrico che entra in funzione, qualche rottore. A me piace il termine. Non so manco come ci ha fatto un rottore. Se addirittura si è spostato quando stavo parlando con Coso, prima arrivava Santiago Nove qua, poi lo sentivo di sblattere e allora sono andato a cercare, se n'è andato sul canale 15. E questo qui lo senti, sentito l'hai, tipo tromba. No, niente, Natali, c'è qualcosa nelle tue vicinanze. Anche qua tra lavatrici, quando si accendono i lampioni di sera, poi mi... Come si accendono piano piano, come si sentite? No, qua tipo tromba proprio, un coso forte. Non sono affatto sentito. Dovunque. Ah ecco, aspetta, guarda il coso, la spiegazione di ruttore. Ruttore. Interruttore automatico a comando elettromagnetico meccanico impiegato specialmente in dispositivi accessori al motore scoppio, vabbè, tutto lì. E noi invece certe volte passa qualche motorino, magari di ghisci dell'anno 3, con quelle candele che non hanno la protezione per i disturbi elettromagnetici, quelli senza la resistenza, mi senti ogni scintillazione della candela, senti proprio il rumore del motorino, della, senti. E come questo che ho sentito adesso? Invece le moderne candele, ma già da bambini, hanno tutte, mi pare, la resistenza proprio per evitare quelle di fare rumorosità elettrica, no? Nuvolo, però nuvoloso vuol dire anche che sarà meno caldo. Devo controllare la temperatura col termometro, poi vedo se è il caso di fare un giro, di riuscire oppure no oggi, che mi sono svegliato già con le palle girate. Natali, io chiuderei, devo andare a mangiare le gatte che, poverette, stanno ancora aspettando. Poi se Dio vuole ci sentiamo più tardi, ok? Ci sentiamo, ciao Natali. Ciao Marco, ciao. Prima il dovere e dopo il piacere, ci sentiamo più tardi, là. Ok, io manco a ascoltare, posso, vai, in ora buona. Vabbè, là, ci accontentiamo. No, non ti perdi niente, perché anche con quel ricevitorino HF lì, cioè, spesso trovi contest, proprio quelli serrati, 5-9, va, avanti l'altro, bla bla bla, zona 5-9, va, avanti l'altro, meglio le discussioni da salotto amatoriali, no, che parlano un po' di tutto, di queste cose meccaniche, da 5-9, 5-9 per te, tutto 5-9, strano, cosa c'è? Smith era valore unico, poi lo danno politico, no? Anche se uno arriva a 7 e danno sempre il 9, 5-9 a tutti, capito? No, i contest non piacciono neanche a me. A me piacciono le discussioni da salotto in 80 metri, te ne vai la sera a tardi a 7:50, sì, 50 lì, oppure in 40 te ne vai, ascolti. Il giorno magari sui 20, sui 21. Io invece non sono riuscito a sentire ancora fonia in 12 metri. In 12 metri non sono mai riuscito a sentire fonia. Ho sentito solo effetti, vabbè, modi digitali, CW, ma fonia no. Non so nemmeno se quella banda sia riservata alla fonia, perché è piccola mia, piccola piccola, sono 100 kHz, fa 24,8,90, 24,9,90, 100 kHz. E sarà solo per i dati allora, e quindi vanno tutti in FT8, se ne stanno andando, un gas non è più nessuno, mi fa vedere al microfono, tutti con questi modi digitali che non li avampano neanche io più. Vabbè, da, ce la chiudiamo, ciao Marco, che me, adesso mi faccio un riposino, poi al limite ci sentiamo stasera. Da, se posso entro, se non voglio, vediamola. Ok, ciao, buona serata, buon tutto, saluti in casa, ciao. Altrettanto, ciao ciao. Thank you. buonasera. Buonasera anche a lei. Chi è? Signor Antonio lì? Eia. Buonasera signor Antonio. Buonasera anche a lei. Chi sono? Gianni G. Rancuari. Chi è che sta facendo rocca? No, possiamo non stavo uscendo. Ciao. Ciao, buonasera. Vabbè, siamo qua. Io un poco ero quindi roba al computer, no? Oggi. No, beh, anch'io. Stavo cambiando la lampadina che me l'ha bruciata. Non di andare a bruciata. Il lampadario è copiata. Cazzo. Ciao Gianni, buonasera. Sto rimbando la terra perché ho fischiato. E ha fatto puff. Hai fatto copiare che cosa? La lampadina, la lampadaria, un gatto. Ah, non la valvola, io facevo la valvola del coso. Io mi tocco i coglioni. La lampadina. La lampadina si è spenta. Quella a LED si è scoppiata. Tanto io ho poco assorbimento. Sta assorbendo, minchia che sta assorbendo un bel, anche una M, figurati, non c'è manco la metà della potenza, esci con gli occhiali a vedere quanto assorbe, 2 kW sta assorbendo. Ma va a buon valore. Cazzo, non fottissi, vive una volta solo. Stavo cantando fino adesso, stavo partecipando a un contest di canto e adesso ho acceso qua. Ma mi sono fatto caso da adesso, solo dalle due cantemi, senza va. Oggi c'è fresco, già si può cantare. Sì, ma che gallo è callo, gatto lo mattesse. Quello mai mi ha preso male, ecco. Ogni volta dopo che finisco di mangiare mi accendo subito il telefono, subito a garzare, ma piglia domani, bisogna che un po' mi stacchi. Anche noi con Luca eravamo così, come supportati tutta la sera, poi mi ha rotto le balle, ha mollato tutto. No, ma qua ci sono varie cose, puoi cantare singolo, puoi cantare in duetto, puoi partecipare a vari contest che fanno, ognuno canta la sua canzone, ti metti in fila e quando arrivi a te canti tu. E poi fanno le votazioni, ti danno cassate, ti danno primi virtuali, dai. Cosa ti posso dire? Lingotto d'oro, oppure lo smeraldo, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque sono cose che ti divertono, non più conosci gente, insomma, ti diverte. Ma a me no, non mi diverte dietro un computer, non ci trovo, mi annoio. A me mi piace cantare in pubblico. Ma perché non sai come funziona, se tu so conoscessi tutto il funzionamento ti diverti tanto. Perché io adesso ho fatto proprio amicizie vere, ci conosciamo, parliamo, entriamo in chat, eccetera. No, non già è bellino, là. Poi già canto anche, già lo sai che io ce l'ho la cassa e canto. Quando canto con quella faccio vibrare il passo, invece quando canto sento non so, la mia voce, la voce diciamo della musica, non la sento, ma il ruolo della musica, capito? Andare. Perché ti credi che quello che ha organizzato la festa mi ha invitato, ma anche a più male non voglio che ando. Non vogliono che vai, e perché? parte perché dice che se faccio qualche errore poi mi fischiano, questo e quell'altro, dici puoi sbagliare, poi se sbagli tu non sei caso di professione, se sbagli poi ti pidare il barugù. Ma devi scendere da culo, ma di cosa stai parlando già, mica per gente peggio di te me. Cazzo, ma cosa si dice in definimini, da mica non c'è a Sanremo me. Cosa stai dicendo già? Dai, smettiamola, chi te ne dà queste minchiate? E la frega, a futtidini, cambiamo discorso. Che siamo tu e giuri che stiamo lottando per questa cosa. Andare, tu prendi qua. Io mi immagino che tu lo possa prendere. Cioè, si può anche rispettare l'idea e essere coerenti, ma è finita. Nessuno è nato in parato, nessuno è cantante, nessuno no, è quello che non so che. Quindi si va per divertirsi, si va per stare in compagnia. Va bene, bisogna accettare anche le cose, dai. No, niente, tu a confronto sei niente. C'è gente che cazzo che fa di bene a me. Cioè, fatelo dire da me, io ci partecipo molto al karaoke, li sento, li... Cioè, fatelo dire, lasciali perdere, chi dice così, mandalo a cagare. In due secondi, di vai, vai. Forza lui che mi piace, vai, scappa a cagare, perché il karaoke è quello. Sì, si fa per divertirsi, no? Io non è che caso sono qui, io ho amici che hanno karaoke professionale con mixer e tutto quanto, sono in casa loro e abitano in campagna e facciamo le feste volte e volte. E ci mangiamo una cosa, lo stiamo, facciamo, mangiamo e poi facciamo, cantiamo. Quindi non è che lo faccio solo a casa tu, la mia voce è educata. Già, ma è così, ma lasciali perdere. Che dice queste cose, cioè mica non c'è a Sanremo, nulla se li intende, cioè, a te, se potete intendere una cosa, vabbè. Parti per la base. Ma non si capisce. Ma si capisce, lo vedi che non batto tutti questa qua. Non si capisce tu, non si capisce, non rende all'apparato. Che canzone è? Gli altri? Senti. Amo solo come i fiori quando si risveglia. Cabagaba. Vabbè tu, se non vieni a fare quel lavoro, vieni a cantare. E da non mi ha ancora chiamato. Non ti ha chiamato? E allora vuol dire che ha preso qualche donato, se no ti avrebbe chiamato, perché tocchi il lunedì doveva presentare tutto in comune, permessi e tutto là. Ah, io ho anche spiegato, non capisce niente quella, io, niente, a me basta che mi pagava la serata, ma fottia nuda, compreso. Vabbè, scelta loro, scelta, se la piglia in culo. Un problema, ma fanno proprio il karaoke, fanno. Ma non so se sei il karaoke che così, ma se mi ha chiesto anche a me se volevo cantare, sicuramente è karaoke. E vabbè, comunque tu vieni con Sara e vi ascoltate le canzoni, magari salite a cantare. Oh, un secondo arrivo subito, ragazzi. Yeah. Già, vediamo là. Ah, cazzo, se chi si abbiglia in luce si abbiglia. Non sa la matessi cosa come suono, non ti preoccupare. Io ormai li conosco già le mie pecore. Io se canto tappeto di fragole, quindi ne posso fare tante, vabbè comunque. Mi piace molto tappeto di fragole, pastello bianco, dei tattici nucleari, e poi come si chiama l'altro, me lo ricordo, quello che canta la canzone del padre che è morto. Non mi viene adesso. E quella del Puccio piace, buon menzione. Sì, l'ho fatta tante volte quella, ma sono già vecchie quelle. Io voglio fare canzoni di adesso, capito? Pantalo bianco l'ho cantato un sacco di volte. Io chiamo solo te, so fare bene. L'emozione non ha voce, la notte, l'immodà. Voglio di poter perdere l'amore, anima mia, gli uomini non cambiano, tutto quello che tutte fatte, te lo so tutte qua. Sì, già. Quando mi esplode il cervello, un bel con l'ETP in basso. Aspetta che sto controllando, perché hanno cambiato, lo sai, tutto l'home page di dove cazzo, tutto quanto un casino anni fa. Io canto anche quella dell'ETP, ma Tex, la conosce? Che cosa, Antonio, non ho capito. Tex, ma è cantata lei, e ci vuole una voce particolare, ci vuole. No, l'ETP non è che li ascolti molto, non mi piace molto. Io canto più canzoni classiche, dai. 20 anni, Ora ti voglio dedicare, 16 marzo, Gerusalemme, tutto quello di Fatto Freddo Fa, di Dato. No, a me mi piace molto le canzoni rocchettare. Se ti pippa, oh ya, yeah. Mi vado a diventare scemo, mi vado a diventare. E Tappeto di Fragole, la conosci? Sì, ci ho fatto una volta. Ma poi io sono tutto strano, come mi gira, a volte per commessa ho cantato anche con la chitarra, non ci credevano che l'avrei cantata anche bene, Rosso Corallo una volta, per tutto per sfida, ha detto vai girami, quando ho partecipato anche a una gara di karaoke. Fuoco rosso luce rapine. Sì, te la conosco già. Bella quella di Epic, piace molto. Ma buda. Oh yeah. Oh, e già. Vai, buttati e canta, tutti dinni già. Te la fai perdere. Scusa che stavo parlando e non ho capito nulla. Ho detto, buttati e canta, tutti dinni già. Ma accendi? È acceso, vai. Anton, nessuno gli sta dicendo che non deve andare a cantare, però qui c'è gente maleducata e tu lo sai benissimo. Non vorrei che... capito, Ma sono tutte dicerie, lascia perdere. Cosa? No, ecco, se tutti pensiamo a quello. Guarda, non canta più nessuno. Pure a me. Mi va, salgo e dico voglio fare il tappeto di fragole, via, e ando. E allora? E allora? Cosa va? Vai e basta. Tu vedrai che si affaccia quando sente l'usignolo. Addirittura? E allora, si affaccia lì, quando sente a me cantando la mia voce le arriva al cuore. Se canto bene sì, magari. Cosa ha detto? Che se canto bene ce li arriva al cuore, se no no. Ma perché lei pensa che tu canti male? Lo penso, però davanti agli altri non si sa mai. Ma fini munira, vieni con noi quando è sabato, vediamo dove andiamo e cantiamo tutti in pari, cosa? Cappa cappa, tu. E vabbè, tu ti alleni poi ogni giorno, ogni sabato, ogni venerdì. Ah, mi ha fatto assai un grande bu. Cappa, ma Claudio, è rientrato, Claudio. Cos'è questo frusto? Aspetta, ho sbagliato il radio. Tu sei invece di me che sbaglio il microfono. Ho sbagliato il microfono, vero? E vabbè. Io vedo che tu qua a cantare. E mira, una volta ricordo al produttore Zen, quando saluto la signora, buonasera. Una volta al produttore Zen, nella cultura ci siamo messi a cantare in Piazza Garibaldi, non ti dico già. Battane cutto di Catria che erano i bisanti, battane cutto tutti i manetti che erano bisaccabo. Ottobre d'estate, quando c'erano karaoke e tutti i bar, come c'erano San Gavino quest'anno, dai, non so se sei sceso, ma c'erano karaoke da tutte le parti, così era d'estate prima, e stavo praticamente cantando, stavano e c'era questo mio ex collega che stava facendo il karaoke, ha detto, beh, non canti, e ho detto, mi faccio cantare la mia figlia, ha cantato Manuele, e dopo mi ha chiamato e ha detto, ma cosa fa, cosa ha fatto il conservatorio? No, non ha fatto il conservatorio, ha fatto un corso di canto, però, dice, bravissima, e falla continuare, perché Manuele non sta pensando al canto, il canto è solo... è solo un'opzione, lei doveva studiare, doveva pensare al canto. Il canto sì, è stato a Tuligi tanto tempo che faceva, accompagnava quelle che facevano le sfilate di moda, eccetera, eccetera. Lei era la cantante, quelle che cantava quando uscivano queste modelle, no? Sì, sì, ma ricordo, io l'ho vista una foto. Io però, giustamente, ripeto, è un po'. Difficile, io non ci riuscirei così in pubblico, però avere la materiale ma essere sbattuto già me la fotti, è giusto per divertirsi. Datemi un secondo che è arrivata mia figlia, vai Anto. Ehi, ok. No, io la verità, non cantavo mai, mi sono provato e poi il mio cervello ha ragionato all'incontrario. Capito, perché ho capito che c'era un qualcosa dentro, che prima non lo capivo, capito già. Ehi Anto, vabbè, Anto, bisogna avere solo il coraggio di vincere queste, diciamo un po' di... Io sono un po' vergognoso queste cose, però se vinci quella vergogna che c'hai davanti agli altri, riesci a fare quello che fai anche a casa. Ma no, è impossibile. No, non devi pensare a quello, se pensi a quello non riusciresti mai. Purtroppo in mezzo a tanti c'è... a me pure hanno offeso. Non è che è offendere davanti alla persona e dirgli adesso te lo faccio vedere io, poi dopo mi si è scusato, mi ha fatto i complimenti, una persona che mi ha sempre conosciuto, capito, non mi ha mai conosciuto cantante, e mi ha detto, mimi, abba, cazzo, mia figura, cazzo, di vuole vincere cantante, ha detto, ah, così, aspetta, gli ho detto. Ha detto, cosa vai da lì? Calmo. Ci ho cantato, ci ho cantato, cazzo, e poi si è ricreduto, ma... Ma infatti, cioè, ci sono quelli che sono nati per cantare.